Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, martedì in vostra compagnia. Vi ricordo che siete a Radio Alma e state ascoltando Brussellando, programma di cultura e di letteratura in lingua italiana. Saluto Dani M in regia. Eh sì, Dani M dice: ma come mai ricordi che cos'è Brussellando? E che di tanto in tanto mi fermano e mi dicono: ma tu sei Maridì? Allora io dico: sì, io sono Maridì. E ma allora che cos'è Brussellando? Ne ho sentito parlare, ma non vi ho mai ascoltato. Quindi, siccome mi è capitato proprio recentemente, allora ne approfitto per ricordarlo. Probabilmente non lo dico più, ma hanno ragione quelli che mi chiedono di sapere che cos'è Brussellando. Brussellando è un programma, fortunatamente in lingua italiana, che ci permette di restare in contatto con quella che è la produzione letteraria, culturale, artistica italiana, e Bruxelles, comunque capitale dell'Unione Europea, riesce ancora ad essere meta ambita di tanti artisti che decidono di esibirsi anche qui, e questo è vero non solo per artisti musicali, ma anche letterari. Tra l'altro, prima di andare avanti, colgo subito l'occasione per ricordare due eventi. Uno, quello di Francesco De Gregori, e lì mi dispiace perché effettivamente il concerto coincide proprio con Brussellando, però, come voi sapete, essendo Brussellando anche in podcasting, quindi una volta tanto, anche se non siete con noi, non è un problema, potrete riascoltarci, anche perché la settimana prossima abbiamo due ospiti direttamente da Firenze, quindi uno spaccato interessante sarà sicuramente anche fornito su quella che è la vivacità culturale fiorentina del momento. Quindi Francesco De Gregori al Cercle Royal. Martedì prossimo ci sono ancora dei biglietti disponibili e poi ci sarà Elisa, credo davvero per la prima volta a Bruxelles il prossimo 13 dicembre, quindi in quella che è la notte più lunga oppure la giornata più corta, a seconda di quello che uno preferisce. Elisa invece sarà all'Ancien Belgique dalle ore 20 e anche in questo caso i biglietti sono ancora disponibili. Ovviamente, se voleste poi saperne di più, riporteremo i dettagli necessari sul sito di Brussellando di Radio Alma, cioè www.radioalma.eu/brussellando. Eppure, prima di proseguire, voglio ancora rubare un minuto della vostra attenzione. Spero che abbiate già trovato una posizione confortevole, che siate a casa, magari in compagnia di amici, delle vostre mogli, dei bambini, e che stiate già trascorrendo un momento piacevole di relax dopo una lunga giornata di lavoro. Oggi intanto in tanti in Belgio non hanno lavorato, oggi è uno di quei giorni rossi sul calendario. Oggi è quella data che segnava la resa della Germania, quindi l'11 novembre 1918 è il giorno della memoria, che segna la fine di quella prima lunga funesta guerra che fu la Prima Guerra Mondiale. Sono tanti gli eventi, come avrete già potuto ascoltare da quelli che sono state le precedenti puntate di Brussellando, in cui abbiamo ricordato più di un evento legato per l'appunto a questa commemorazione. Brussellando, nel suo piccolo, questa sera quindi vuole dedicare un momento di riflessione a quei soldati, a quelle vite, a quegli uomini, a quelle famiglie e a quelle porte chiuse che non sono state mai più riaperte, e ai sopravvissuti, ai quali tutto sommato è stato dato l'arduo compito di proseguire, di andare avanti. E allora, siccome l'emozione non ha voce, sapete che mi emoziona, nonostante dica sempre di resistere a tutto ciò che mi fa emozionare, invece no, questa sera lo sono particolarmente. E allora voglio affidare quelle parole, quelle della musica, questo omaggio. E voglio dedicarlo a tutti, voglio dedicarlo anche a quelle vittime che ho scoperto, riscoperto, se volete, simbolicamente a Ypres qualche giorno fa quando mi ci sono recata in visita, a quei 55.000 nomi trascritti al Meningate di Ypres, questa città in cui quella guerra è ancora un ricordo vivo, un ricordo indelebile. E allora è giusto che sia così, perché non può esserci popolo che non abbia futuro se non guarda indietro al proprio passato. Quindi la guerra di Piero, di De André, e poi ritorneremo con la nostra intervista di questa sera. A tra poco, restate con noi, Brussellando, Radio Alma, Mari D. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, Mari D ai microfoni di Brussellando e Radio Alma. Lo dicevamo per l'appunto in apertura che è nostro ospite questa sera il direttore editoriale dell'Einaudi, Ernesto Franco, che è stato a Bruxelles proprio qualche giorno fa ospite dell'Istituto Italiano di Cultura. E il dottor Franco è stato gentile, è stato veramente gentile, perché tra i suoi mille impegni è riuscito a trovare un quarto d'ora anche per gli amici ascoltatori di Radio Alma e in particolare di Brussellando. Prima di passare a quello che è il suo intervento, quindi brevemente sul dottor Franco: è laureato in lettere all'Università di Genova, ha lavorato presso le case editrici Marietti e Garzanti, insegnato presso l'Università di Genova e Siena. Studioso della cultura ispano-americana, ha curato o tradotto opere di Borges, Cortázar, Mutis, Ottavio Paz, Ernesto Sabato e Mario Vargas Llosa, questo permettetevi di ricordarlo. Ha curato inoltre l'antologia della letteratura fantastica con testi di Borges, edito per l'appunto da Einaudi nel 2007. Dal 1998, quindi è già verso la sedicesima, forse magari già la diciassettesima Candelina, e nel 1999 con Vite senza fini ha vinto il premio Viareggio. E vi assicuro una cosa, e voi lo sapete, che Mari D quando promette qualcosa poi si impegna, che leggerò Vite senza fine, perché mi piacerebbe anche conversare col dottor Ernesto Franco anche della sua passione di diciamo verso la scrittura, e soprattutto nella sua veste di autore. Prima di passare all'intervista, ancora un suggerimento musicale, restiamo sul tema, il tema di questa sera, che è il tema della memoria, ma lo facciamo in maniera un po' più allegra, e questa volta affidiamo le parole a Francesco De Gregori e al suo Titanic, che ugualmente ci farà vivere una bella e profonda emozione. Restate con noi, Mari D, Radio Alma, Brussellando. Cari amiche e cari amici, quindi come annunciato in apertura, è qui con noi il direttore dell'Einaudi, Ernesto Franco, tra l'altro di passaggio proprio a Bruxelles qualche giorno fa, ed è proprio in occasione della sua presenza all'Istituto Italiano di Cultura che questa sera il direttore ci racconterà anche un po' di quella avventura, di quella esperienza che si è conclusa proprio qualche giorno fa. Direttore, benvenuto a Radio Alma, benvenuto a Brussellando. Grazie, un saluto a tutti voi, eccomi qua. Lei tra l'altro è stato proprio di passaggio a Bruxelles qualche giorno fa, ospite dell'Istituto Italiano di Cultura, quindi comincerei proprio da lì. Quali sono i ricordi, che cosa ha portato con sé a Roma dopo questa esperienza brussellese? Intanto è stato un po' di anni fa nella città, e essendo arrivato un po' di tempo prima appunto dell'incontro, devo dire, splendidamente organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura, ho fatto un po' un giro nel centro, e questa è stata una cosa molto bella, perché non la ricordavo così bella con la città da una parte. E poi è bello, è stato un incontro ricco di calore e di curiosità anche per le cose non soltanto che riguardano la storia dell'Einaudi, ma insomma per la cultura italiana, che caratterizza una parte mica poco importante della città, insomma. Quindi questo mi ha fatto molto molto piacere. L'idea di un Bruxelles è considerato un posto, naturalmente, ovviamente per vocazione, così internazionale, ma in un posto così internazionale avere un interesse per, nel mio caso appunto, in particolare Italia, mi ha fatto molto caldo. Posso immaginarlo. Tra l'altro, come lei sa, Brussellando dedica già da 8 anni, questa è la nostra 8ª edizione, proprio spazio da un lato alla lingua italiana e dall'altro alla produzione letteraria in lingua italiana. Quindi, tornando invece al suo ruolo, al ruolo proprio di direttore di questa casa editrice, che possiamo dire è uno delle pietre miliari della nostra cultura, c'è qualche ricordo? Mi rendo conto che è difficile rispondere perché sono tanti i ricordi. Io in 8 anni. No, certo. Però magari c'è un momento, magari anche simpatico, più di uno, che vorrebbe condividere con i nostri amici all'ascolto, magari anche qualche curiosità legata alla sua professione, perché immagino che, insomma, il suo ruolo stesso richieda davvero tanto tempo e soprattutto tanta pazienza. Sì, questo è tanta passione. È tanta passione. Perché, sì. Sì, questa è una delle cose che. Ma io insomma, gli anni importanti che ricordo qui all'Einaudi sono poi gli anni sostanzialmente di collaborazione, proprio a stretto contatto con Giulio Einaudi, perché insomma io sono uno di quelli che pensa che siccome un maestro lo abbiamo comunque, tanto vale sceglierselo, cogliere l'occasione che ce lo porge. Allora in quegli anni lì ho cercato di più che avere lui come maestro, cercare di essere io un allievo. Una delle cose più così inaspettate che io mi ricordo appunto dei primi anni qua all'Einaudi fu il fatto che quando arrivai all'Einaudi a occuparmi appunto di una serie di libri così, Giulio Einaudi mi prese e mi portò per 3 giorni con lui in Liguria a curare direttamente io e lui, proprio pagina su pagina, un libro. E ovviamente lui molto ironicamente dice: no, ma perché so che tu sei bravissimo, come... ma questo non era evidentemente vero, e voleva capire che cosa sapevo fare e soprattutto chi ero. E questo faceva parte di quella che poi era stata la sua filosofia, che l'editoria sia senz'altro intelligenza di libri e sia intelligenza di idee, ma soprattutto sia intelligenza nel senso capacità di comprendere le persone. E allora questo anche parlando di cose varie, non necessariamente ossessivamente di libri e di idee, ma parlando di se stessi, vivendo in qualche modo insieme, mi fece capire una parte importante del mestiere, che si può riassumere nella frase che è scritta su tanti libri di cui noi non ci accorgiamo più, cioè che questo è un mestiere caratterizzato dalla ver cura del genio degli altri. E questo è una cosa che cerco sempre, di cui cerco sempre in ogni occasione, anche adesso, di far tesoro. Mi sembra essere effettivamente un bellissimo motto, anche perché insomma produrre anche letteratura non è cosa semplice, nonostante mi sembra di capire che poi tutti oggi ambiscono a diventare scrittori, ma arriveremo anche a questo. C'è un tratto di Giulio Einaudi che a distanza di anni continua ancora ad affascinarla, che ricorda davvero con piacere? Sì, senz'altro. Un'altra cosa di lui mi continua ad affascinare, continuo a cercare di ricordarmi, e questa idea, ovviamente il lavoro editoriale come tutti i lavori ha anche degli aspetti rutinari e così proprio appunto di lavoro. Quello su cui lui insisteva molto erano poi in realtà 2 cose, una era quella di bisognasse divertirsi, questo lavoro non lo facevi bene se non ti divertivi. E l'altra cosa che di nuovo lui considerava fondamentale, ma non è che la predicasse, ma la mostrava, è che anche in questo lavoro è importante non abituarsi a se stessi, non diventare la convenzione di se stessi. Anche le cose buone, se ripetute automaticamente, rischiano di diventare delle convenzioni, delle cose artificiali, quindi di rinsecchirsi, non produrre più ciò che caratterizza di nuovo il nostro mestiere, che è quello di andare a cercare, quello di essere curiosi ininterrottamente del nuovo, cioè di ciò che rimarrà nuovo non solo per te, che lo scopri in quel momento, ma anche per gli altri e quindi per le generazioni future, in una sorta di tessuto di cerchi che, come quelli che fa il sasso buttato nello stagno, si allargano sempre di più. E guardi, io sono particolarmente veramente commossa da queste parole, perché effettivamente c'è un elemento che dimentichiamo, che è proprio essere curiosi, perché in un mondo dominato da un certo tipo di informazione, purtroppo alcuni strumenti oggi a disposizione di tutti penso riducano invece che aumentare la curiosità. Però questo mi permette di introdurre una domanda che avevo per lei, che è proprio questa capacità che la sua casa editrice ha avuto nel tempo, quindi questa capacità di rinnovarsi, di aprirsi al mondo, a un mondo poi come quello letterario che negli ultimi 80 anni è passato da una dimensione piuttosto elitaria ad una dimensione potenzialmente aperta a tutti. Pensiamo per esempio a quello che voi avete fatto con i tascabili, oppure traducendo autori in italiano, quindi non a portata di mano poi per tutti, come penso a Saramago, a Ossere, due autori a me molto cari. Quindi come vede l'evoluzione del libro nel prossimo decennio? Questo libro cartaceo sopravviverà oppure sarà accompagnato da altri prodotti? Quindi insomma l'industria editoriale muta nel tempo come mutano le nostre tecnologie, quelle che ci circondano, oppure no? Ma io sono cose di cui è difficile essere profeta, è difficile fare l'analisi in questi tempi che definiamo di crisi, che in realtà sono di metamorfosi, e cioè non soltanto di crisi economica ma anche di cambiamento proprio dei gusti e della mentalità. Io penso che con tutto, tutta la parte tecnologica che noi abbiamo a disposizione è una parte formidabile se noi la si interpreta come una magnifica protesi, ecco, che ti fa, che rende possibili molte cose che prima non erano possibili, voglio dire, parlando in senso proprio generico, che oggi un giovane studente nigeriano virtualmente sia in grado di accedere alla Biblioteca Nazionale di Firenze, la trovo una cosa meravigliosa, naturalmente. Penso ugualmente che il libro rimanga come oggetto e come strumento di pensiero con una sua forte identità. Quello che noi avremo in comune, che avranno in comune con noi le generazioni future, sarà una cosa che è lievemente fondamentale, e cioè che le 24 ore della giornata saranno sempre 24 ore della giornata. Il problema dell'uomo di domani è che avrà molte più cose da utilizzare in quelle 24 ore, quindi sarà un problema di selezione e quindi sarà di nuovo un problema di orientamento. Ecco, io penso che appunto il magistero, l'orientamento, un percorso, una rotta, siano sempre più importanti, proprio in un momento in cui tu hai virtualmente a disposizione tutto il mondo, ma tutti abbiamo a disposizione tutto il mondo, ma non abbiamo né il tempo né i modi per percorrerlo tutto. È per questo che abbiamo bisogno di cartine geografiche, di percorsi, e poi possiamo condividere o meno, mischiare, inventare, però una carta geografica che sia uguale al mondo è completamente inutilizzabile. Per orientarsi nel mondo, voglio dire, nei tempi, nella cultura, c'è un continuo bisogno di percorsi, quindi di selezione, quindi di una vicinanza per affinità. È questo che rimarrà anche in futuro come caratteristica fondamentale di un editore che farà certi libri e non altri, sceglierà certi editori e non altri, sceglierà certe culture da diffondere e non altre. Ecco, questa cosa qua rimarrà, anzi, se possibile, l'importanza di questa cosa, dell'orientamento, del mostrare un percorso senza fare mai in alcun modo i professorini di niente, sarà una cosa che durerà nel tempo. Io sono veramente d'accordo con lei e mi interrogavo mentre l'ascoltavo allora su un aspetto che rivestono le case editrici che, come diceva lei, scelgono, quindi avviano ovviamente un percorso, a un certo punto magari vanno oltre quel percorso oppure decidono di cambiarlo. Secondo lei, quindi, questo mondo così veloce oppure così variegato, come diceva lei prima, poc'anzi, proprio in merito alle possibilità di scelta che abbiamo, qual è il ruolo della scrittura oggi? E soprattutto qual è il ruolo della parola in quest'età che pare aver richiuso tutto in questo numero magico che è 160 caratteri? Ma il ruolo della scrittura, il ruolo della parola è di nuovo importantissimo, perché vede, le parole possono essere usate in modo mesto e tristanzuolo, diciamo la verità, no? E noi tutti le usiamo anche così nella vita di tutti i giorni, per comunicarci ciò che vogliamo o dobbiamo fare così, però se invece noi consideriamo questo immenso dono che ci fanno le generazioni precedenti, che è quello appunto che ci arriva attraverso la lingua che parliamo e le cose che leggiamo e la scrittura che abbiamo, scopriremo che dentro ogni parola a cui prestiamo l'attenzione dovuta ci sono le storie e le esperienze di sia i singoli individui che intere generazioni del passato. Allora, questa cosa qua diventerà sempre più importante, purché noi troviamo il tempo da dedicargli, che è un tempo diverso da quello della velocità. Per la velocità non è detto che non sia un tempo rapido, perché un aforisma è un oggetto linguistico molto rapido, ma carichissimo di senso. La velocità è invece fine a se stessa, la velocità come nevrosi, la velocità come angoscia e come alienazione, ecco, questo porta ad un piatto narcisismo epocale. Il fatto di soffermarsi e lasciar parlare l'altro, anche attraverso i libri, la memoria, le generazioni, invece arricchisce il mondo in continuazione e rende conviventi generazioni che magari si sono perdute nei secoli. E quindi, a proposito proprio di quello che lei ci sta raccontando, dal vostro sito internet ho letto una bella frase riferita a Giulio Einaudi, il quale si dice che raccoglieva tutte le idee dei suoi collaboratori, anche quelle che magari erano incrociate, quindi lui valutava molto, o comunque aveva a cuore quello che era il confronto tra i suoi collaboratori. Quindi, se penso a questa frase, la collego col ruolo che oggi svolgono le case editrici, pensiamo ad una così grande come la vostra, ma anche a quelle più piccole, fino a che punto riescono a esprimere anche quella che è la nostra società oggi, cioè eticamente, qual è questo, non so se sono stata molto chiara, però volevo proprio tornare al ruolo etico per restituire anche alla scrittura questo valore non solo di ricordo ma anche di monito, per ammonire anche in quello che accade nella nostra società e quella italiana in particolare. Sì, io credo che sia un ruolo fondamentale quello del singolo editore, ma soprattutto quello della molteplicità dei singoli editori. Si parla in questi giorni, no, del pericolo di monopoli, pericolosissimi monopoli dell'editoria. Monopolio in sé è un concetto che va contro l'idea della libertà di espressione, nel senso della molteplicità delle espressioni possibili. Allora, io non so se le critici devono dare un monito, ma sicuramente con il loro lavoro mostrano e devono continuamente mostrare quanto il mondo è ricco di idee, di punti di vista e di territori, da esplorare. Se questo in qualche modo per motivi interni implodesse, per motivi esterni invece fosse compresso, ecco, il mondo diventerebbe molto più povero, diventerebbe eticamente, come lei dice, molto più pericoloso, molto più asfittico. Insomma, la famosa cosa, io lotterò fino alla morte perché tu possa esprimere l'opinione contraria alla mia, l'idea volteriana di questo è quello che rimane alla base, secondo me, anche del lavoro quotidiano di un editore. E quindi diciamo quasi in chiusura, perché ahimè il tempo, come sai, in radio è veramente tiranno, corre via veramente veloce, ma nella sua carriera proprio di editore c'è oppure ci sono stati esempi di scrittori che avrebbe voluto pubblicare e che non ha pubblicato, e altri invece che continuerebbe a pubblicare all'infinito? Ah sì, moltissimi scrittori sono quelli che io vorrei continuare a pubblicare all'infinito. Quelli che non ho pubblicato, chi avrei voluto pubblicare? Sì, avrei voluto pubblicare dei scrittori attualmente viventi, sicuramente Kundera avrei voluto pubblicare. Io sono stato un lettore e sono un lettore appassionato, appunto, delle sue cose, sia saggistiche che narrative, che poi per lui fare la differenza è sempre un po' complicato. Per quanto riguarda quelli che pubblico, sempre ho l'idea di pubblicare tutto quello che scriveranno, perché è questo che deve fare l'editore, dare una possibilità di apertura, non accontentarsi mai, appunto, di replicare le cose, ma dare l'impressione e la possibilità agli autori che lavorano con lui di poter essi stessi sperimentare vie nuove e magari di cui magari non hanno ancora l'annuncio. A proposito di annuncio, quindi c'è un messaggio agli amici all'ascolto che magari sono scrittori in erba, perché anche qui a Bruxelles si organizzano corsi di scrittura creativa. C'è un suggerimento che vorrebbe indirizzare ai nostri amici che ascoltano Radio Alma e Bruxellando? Sì, suggerimento, le cose sono appunto quelle di porsi all'ascolto, proprio la miglior lezione di scrittura, per esempio, è un lavoro di traduzione. Non c'è lezione di scrittura che possa sostituire l'attenzione che richiede fermarsi sulla pagina di un grande scrittore e provare a volgerla nella propria lingua. Molte cose, o la maggior parte delle cose, le avrà risolte già lo scrittore, ma rimangono proprio nel momento di volgere la lingua dall'originale alla propria, molte cose, che molti problemi, molte piccole soluzioni che deve affrontare lo scrittore saranno in quel caso demandate al traduttore. Ed è lì che si può ascoltare una delle migliori lezioni di scrittura possibili. Questo mi sembra essere un ottimo messaggio, soprattutto in questa nostra realtà, quella brussellese, multiculturale e multilinguistica. Direttore, c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere che non le ho chiesto e quindi magari con la quale concludere questa nostra intervista? Ci avevo tante cose da dire. Mi auguro soltanto di poter tornare a Bruxelles quanto prima, di nuovo all'Istituto Italiano di Cultura, perché mi sembra che stia lavorando molto bene. E noi l'aspettiamo ovviamente con impazienza e speriamo veramente di vederla quanto prima, nostro ospite, magari anche negli studi di Radio Alma e di Bruxellando. Molto volentieri, arrivederci. Buonasera, arrivederci. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, bentrovati, bentrovate, e Mario D ai microfoni, che vi saluta, vi augura un ottimo proseguimento di trasmissione con Georges Laurent e Fiordaliso. Ahimè, la settimana culturale e gli eventi culturali di Bruxelles sono tanti e tali che non riesco a restare con voi per tutta la trasmissione. Auguro comunque a tutti voi una splendida settimana, davvero in compagnia di questo clima fantastico, meraviglioso, che spero continui ancora ad accompagnarci in queste prime giornate autunnali. Tra l'altro i colori di Bruxelles in questi giorni sono fantastici, per quanti amano magari trascorrere almeno qualche minuto all'aria aperta. Passeggiare per Bruxelles in questi mesi lo trovo effettivamente un viaggio tra i colori non più vivaci dell'estate, eppure così belli e variegati. Buona settimana a tutti, restate ancora con noi, continuate a seguirci perché sono tante ancora le sorprese che Bruxellando vi riservirà la prossima settimana e soprattutto da qui alla fine dell'anno. Un caro saluto a tutti e a prestissimo, Maridì! Eccoci ben ritrovati in studio, siamo tornati in studio dopo l'intervista di Mary D con delle novità. Abbiamo finalmente in studio dopo una lunga pausa estiva, ormai siamo praticamente all'autunno inoltrato. Estiva, siamo quasi Natale. È passata l'estate e ormai siamo ad autunno, direi inoltrato, o sbaglio? Beh, autunno inoltrato, dipende sempre dal punto di vista, dai punti di vista, dai, cioè un po' vorrei più flessibilità nel guardare il mondo, cioè vabbè. per George tutto è bianco e nero. Praticamente basta. Il calendario ci ha detto che siamo in autunno, anche se il tempo qui non si capisce bene. Forse è l'autunno di una volta, con le foglie che ingialliscono, almeno qui a Bruxelles, in Italia sembra che sia un autunno monsonico, cioè una coda dell'estate molto lunga, temperature calde, ma pioggia. E invece, grandi disastri purtroppo. Dopo l'estate abbiamo finalmente recuperato, ed è qui i microfoni avete già sentita, Fiordaliso. Ciao Fiordaliso. Ciao a tutti. Benvenuta a Bruxellando, che ha ricominciato in modo un po' diverso quest'anno. Comincia con delle formule un po' particolari, noi siamo arrivati un po' in ritardo dopo la pausa estiva, ma siamo qui e cominceremo una cosa interessante, nuova, forse nuove idee che vengono fuori. D'altra parte, voi sapete bene che dopo un po' bisogna sempre cambiare. Bruxellando sicuramente aveva cominciato molti anni fa con il viaggio un viaggio che era il cardine di Bruxellando. Beh, vediamo dove ci ha portato questo viaggio, ci sono cambiamenti, ci sono modifiche, beh, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Giorgio, intanto tu mi parli di estate, mi parli di viaggio, mi dai un assist incredibile qua, perché è vero, è un po' presto, però insomma dal 5 al 12 dicembre prossimo al Botanique ci sarà il 14° Festival del Cinema Mediterraneo. E il festival tra l'altro festeggia i suoi 25 anni, quindi ormai è un rendezvous da non perdere a Bruxelles in dicembre, proprio quando tutti si preparano per il Natale, ecco che arriva il film Mediterraneo. Tra l'altro quest'anno ci sono diverse iniziative, diversi anche concerti ed eventi e serate gratuite, tra l'altro tutte le informazioni si trovano sul sito www.cinemamed.be e vi consiglio di incominciare già a guardare il programma, perché secondo me per chi ama il cinema è una settimana molto intensa dove non bisogna perdere assolutamente nulla, col solito mercatino dei sapori del sud, gli invitati, dibattiti, soirée calientes eccetera. Quindi George, ritorniamo in estate, va che meglio, ci riscalderemo e ritornando dopo l'estate, beh, c'era un appuntamento che vi mancava, ne sono certo, mi mancava moltissimo, e l'appuntamento è quello di Librangolo. Fiordaliso, sei pronta per iniziare la nuova stagione di Librangolo? Senza sigla non posso. Signore e signore, ritornano su questi schermi, su queste onde elettromagnetiche che vi arrivano alle orecchie, vi titillano le papille uditive, ecco a voi Librangolo. Grazie, cioè, già mi sento più a casa. Una sigla d'annuncio. Sì, e in effetti non so se avete visto sul nostro eccellente account Twitter che ovviamente si chiama Bruxellando, sorpresa sorpresa, che c'era anche una piccola anteprima, tipo una serie di libri fotografate, perché comunque dato che eravamo distanti o assenti per un bel periodo, per un bel po' di tempo, abbiamo anche comunque lavorato per voi, quando il lavoro è un piacere, e ho letto un sacco e quindi ho un sacco di cose di cui parlarvi. E una delle cose, cioè io ho deciso di portare proprio il mattone per oggi. Per eccellenza. Per eccellenza, no, non è per eccellenza, cioè il mattone comunque come espressione non mi piace, anche se trasmette molto bene il concetto. Si tratta di un libro di 900 pagine. E qui ho 600, non lo so, comunque forse 600 magari. 600 pagine, beh, comunque corposo. Comunque corposo, e quindi è sicuramente una vista che potrebbe spaventare un po' di persone, e questo mi ricorda anche un po' sugli ebook, però non ti puoi spaventare. In che senso? Questa me la devi spiegare. Ovviamente non vedi il mattone. Quindi tu, per esempio, scarichi un libro, cominci a leggerlo, magari vedi, non so, numero di pagine, magari con quell'impaginazione un po' particolare per l'ebook 1200, però non è che ti spaventi, perché non hai il feedback visivo del mattone, il peso nelle tue braccia mentre leggi. Cioè, queste sono tutte sensazioni piacevoli per me. Devo dire che hai ragione, anche se uno potrebbe recuperare dalla location e dopo mezz'ora vede che la location è 200 su 20.422 e dice si spaventa, ma ancora peggio, io credo che sarebbe una buona idea per percepire il livello del mattonaggio del libro che si sta affrontando, invece che mettere la location, mettere ore mancanti. Quello c'è. Alla fine del libro. C'è su Kindle, che ovviamente le ore mancanti fino alla fine del libro sono anche aggiustate alla velocità di lettura dell'utilizzatore. Ah sì, questo non lo sapevo, credo che fosse una velocità media. Quindi per George si calcola in anni. Decenni, prego, lustri per esattezza. Beh, probabilmente il nostro lettore fa una media fra le nostre varie velocità di lettura, quindi fa una piccola tara. Fa una piccola tara. Quindi il mattone che vi ho portato stasera è un mattone abbastanza particolare, ha vinto il premio Pulitzer del 2014 e ha anche fatto generare un sacco di discussioni, perché fondamentalmente ci sono due tipi di lettori. Il tipo di lettore che lo ama e il tipo di lettore che lo odia e lo trova noioso. Allora, questo non è un buon inizio, vero? O addirittura è un buon inizio, perché è un libro che spacca così tanto i lettori che sono già hanno cominciato un libro che loro sono disposti a leggere, cioè 600 pagine vuol dire sono i lettori. Tu non offri, cioè una persona a cui non piace particolarmente leggere o vuole, sta cercando una piccola scappatina nel mondo della lettura, mica sceglierà un libro di 600 pagine. Quindi fra tutti questi lettori accaniti, fondamentalmente comunque questi lettori sono divisi fra quelli che lo amano, che dicono che questo è un premio meritatissimo, che la scrittrice ha un livello di scrittura che è incredibile, con cui io concordo, per esempio. Altri invece che dicono che è un po' pretenziosa, che cioè è troppo filosofica, cioè poi ci sono alcuni che dicono che addirittura è noiosa. Si tratta del Cardellino di Donna Tartt. Un'altra curiosità, magari, che vi dico prima di entrare nel merito del libro, è il fatto che la scrittrice ci ha messo 10 anni per scriverla. Donna Tartt non è una scrittrice prolifica, questo è il suo terzo libro, e per ogni libro lei attraversa un periodo di gestazione molto lunga, cioè secondo me sicuramente sarà un po' perfezionista, perché avrà riletto, rimasticato queste 600 pagine chissà quante volte fino ad arrivare al suo stato attuale. Secondo me si vede, nel senso che comunque non so, le frasi sono ben costruite, ma allo stesso tempo sono fluidi. Arrivare al livello in cui qualcosa sembra quasi senza sforzo, mentre è complesso, ben lavorato, con delle belle immagini che ogni tanto ti viene, ma vuoi, beh, questo sarebbe da citare, eccetto che non si può citare fuori contesto, sempre, per poterlo attrezzare. Quindi è comunque un libro molto ben lavorato. È anche un libro molto particolare, perché è un viaggio attraverso vari generi ed è fatto in un modo che questi generi si uniscono in modo perfetto, cioè quasi senza sentire questi passaggi, cioè le persone capiscono che nello sviluppo del personaggio c'è un nuovo periodo in cui le cose che succedono sono completamente diverse, però questo cambio di genere che va con questi cambiamenti nella vita succede con tanta naturalezza, tanta facilità da parte della scrittrice. E allora di che cosa si tratta? Si tratta di un bambino, all'inizio della storia è un bambino, Theo, che perde sua madre in circostanze abbastanza tragiche. Si tratta di un attentato in un museo di New York, e mentre Theo sopravvive illeso e fa anche un incontro molto decisivo per la sua storia, sua madre non sopravvive e lui rimane solo perché ha un padre alcolizzato, assente, non esistente, e da questo momento in poi, prima di tutto, Theo è traumatizzato, ma senza necessariamente lasciarlo traspirare nel racconto. Cioè a volte uno ha l'impressione di leggere la storia di qualcuno che sta lottando con la vita, che non facilmente sta, ha un sacco di difficoltà, ma non hai questa impressione che necessariamente si tratti di qualcuno che continuamente sta lottando con un trauma. Lo capisci soltanto se a volte la scrittrice cambia prospettiva e eventualmente racconta anche aspetti della sua vita che Theo stesso non aveva raccontato sulle pagine che trattano soprattutto di lui. Lui si aggrappa comunque e cerca una casa, e fondamentalmente diciamo che quasi tutto il libro è una ricerca per un perno, un qualcosa che ti possa sostenere nella vita. E all'inizio si tratta di questa casa, questa famiglia la trova un po' nella casa di un amico, dove la famiglia almeno per un periodo lo accoglie, cioè è comunque un ambiente abbastanza alieno, quindi lui deve imparare a muoversi e anche di, diciamo, sopravvivere. Poi ad un tratto appare il padre e lo porta a Las Vegas. Da questo punto in poi il libro cambia tantissimo, mentre all'inizio era tipo un bambino che ha un trauma, che trova una, una qualche tipo di casa, però che sta cercando di trovare, diciamo, un suo posto in questo nuovo mondo che lo circonda. A partire dal momento in cui si arriva in Las Vegas, praticamente quasi si trasforma in Fear and Loathing in Las Vegas. Conosci come si chiama in italiano il... Rambo di Las Vegas. No, è Fear and Loathing in Las Vegas, che hanno fatto anche, tratto un film con Johnny Depp. Si tratta di drogati, di visioni. Josh, dovresti conoscerlo questo film, si tratta di drogati. Invece no, non lo conosco purtroppo, Fear and Loathing. Comunque, con un padre alcolizzato, con la sua compagna che è dipendente da medicinali, cioè lui, e anche con un amico che poi diventerà, diciamo, uno delle cardini della sua esistenza, che anche lui prende la vita un po' alla leggera, però sì, anche lui dà uno sfondo abbastanza tragico. Comunque si lanciano nell'oblio. Ed effettivamente cambia completamente lo stile, e c'è chi questo non piace, c'è chi dice ma che schifo, cioè quella parte proprio fa schifo. Ma fondamentalmente quello che cambia è che per me, secondo me, la scrittrice ha cercato anche di trasmettere quanto attutisce il mondo attorno a te, per esempio la droga, i medicinali, cioè comunque cambiano la percezione. E quanto ovviamente tu possa sentirti alienato, da solo, lasciato a te stesso, molto da solo, in un Las Vegas dove praticamente sì, hai due persone che dovrebbero avere cura di te, ma che hanno proprio i loro giri e praticamente non li vedi mai. E quindi lui è relegato in un... chi è stato in America capirà benissimo, ci sono delle distanze immense, se tu non hai una macchina non vivi. Quindi che cosa vuoi da un bambino che è in uno dei suburbi di Las Vegas, che sta cercando di andare in scuola, che come unico compagno ha un misto russo-polacco un po' cosmopolita e un po' pazzerello? Cioè, è un cane, anche. Vabbè. Un cane. Comunque, secondo me questo, diciamo, è un po' una vita, un limbo. Un limbo un po' senza senso, e da questo limbo un po' senza senso poi esce il personaggio principale, scappando, tornando a New York. Quindi il bambino. È ancora bambino, non è diventato adulto, non è, è adolescente, suo padre muore e quindi lui scappa perché non vuole essere in tutela di certi personaggi. E quindi va a New York, praticamente forza il personaggio più simpatico di tutto il libro, che si chiama Hobie, che è uno che sta rinnovando con tanta passione e pazienza dei mobili di antiquariato, e cerca di entrare in quella vita, quindi ricomincia una vita a New York, però è completamente separato da tutto ciò che aveva fatto prima. Allora, quello che però lo definisce, o non so se lo definisce o piuttosto lo tiene un po', o gli dà un filo conduttore, è il suo segreto. Perché il suo segreto è che al momento, questo succede praticamente sulle prime pagine del libro, ed è proprio una cosa che tutti sanno su questo libro, quindi non vi dico un grande segreto. Si tratta del dipinto Il Cardellino di Fabricius, che della scuola fiamminga, e che nel momento di questo attentato un vecchio lo incita di salvare, e praticamente il ragazzino prende il dipinto, e poi, passato il momento in cui, degli inizi di dopo l'attentato, lui comunque sente di non poterlo più ridare senza essere accusato eventualmente e entrare in... E più il tempo passa, più questo segreto diventa pesante. Cioè, una bomba che potrebbe esplodere in qualsiasi momento, ma allo stesso tempo un segreto che ti tiene ancorato in un qualche modo. E il Cardellino avrà un ruolo molto importante verso la fine, quando anche verso la fine, perché c'è anche un L'ultima parte del libro invece è completamente pulp, cioè quindi siamo andati da, non so, romanzo di formazione in Fear and Loathing in Las Vegas, dopo un po' di... di nuovo romanzo di formazione, diciamolo così, e poi finiamo in Pulp a Amsterdam. E non ve lo racconto. Comunque, è completamente diverso. È vissuto anche in modo febbrile, ed è questa cosa febbricitante, un po' irreale, che è trasmesso di nuovo su quella parte della storia, e di nuovo ci sono persone a cui non piace. Che fa, mamma mia, ma questo è un po' esagerato, non va bene alla fine del libro. È un po' strano, ma è assolutamente accettabile, secondo me, addirittura più verosimile di alcuni passaggi del nostro caro amico Harry Hulle, che ha delle avventure completamente over the top. Hulle. Comunque, si trasforma un po' in pulp, in thriller, per poi finire, diciamo, in un certo modo di vita per il personaggio principale. Ed è qua, secondo me, alla fine la scrittrice rivela un po', che dopo tutte queste pagine rivela un po' qual è il senso di vita che questo personaggio riesce a trarre da tutta questa storia. E questa riflessione è interessante, magari è un po' lunghetta, ma è molto interessante. Cioè, prima di tutto, questo personaggio non può avere una visione positivissima della vita, è impossibile. Di nuovo, c'è a chi non piace il negativo delle ultime pagine, però secondo me è una cosa veritiera. Un personaggio del genere sarebbe completamente irrealistico se sentisse, non so, un ottimismo senza confini, direi. Quindi dice che avrei preferito non nascere, ma dato che sono nato e ho una vita, questa vita comunque vale la pena di uno sforzo. E fondamentalmente la cosa che lo tiene in vita, che lo porta, diciamo, che può qua avere un senso, è proprio questo contatto che lui aveva avuto con un oggetto che è stato amorevolmente custodito per secoli e secoli. È come se tu in quel momento sentissi che davvero c'è una certa continuità, che tu sei un mortale, però nella catena di altre persone che in contatto con la bellezza hanno sentito questo desiderio fortissimo di proteggere la bellezza. E quindi a me è piaciuto questo pensiero. Poi fate voi. Comunque, nonostante il fatto che io vi abbia raccontato tanto, vi potete immaginare che rispetto alle 600 pagine non vi ho raccontato niente. Hai raccontato un po' la trama, tanto per capire di cosa si tratta. Sì, tanto per capire che cosa cercare, per chi eventualmente certe cose non piacciono, che non cominci neanche, che piuttosto mi rivolgo a quelli che potrebbero apprezzare questa storia un po' di stili visti e anche di una trama particolare. Beh, in effetti è una trama particolare, è assolutamente interessante questo cambiamento. Posso capire che il cambiamento di stile infastidisca qualcuno, perché se a me piace il romanzo di formazione e non mi piace il pulp, è come se ci fossero, da come l'hai descritto, più libri dentro lo stesso libro. Sì, è effettivamente così. George, appunto, il concetto di mattonella di questo più libri nel più libro fa sì che lo potete trovare in tutti i brico di Bruxelles, al reparto cemento, mattonelle, no. Non lo so, dove si può trovare questo libro? Mi dispiace per voi, si trova su IBS, secondo me si trova in tutte le librerie, mi dispiace per voi. Magari alla più alla libri, magari. In italiano non c'è. Sì che c'è, ovviamente c'è. Però in Belgio non si trova. Sì che si trova. Dai nostri amici della Piola Libri, anche su online, dai ragazzi, si trova. Qualcosa si dovrebbe trovare, ma non sappiamo chi è l'editore italiano ancora. No, purtroppo, penso che sia il Rizzoli, ma non vorrei sbagliarmi. Beh, il titolo è? Il Cardellino. Di? Donna Tartt. Donna Tartt, il Cardellino, beh, insomma... ci ha fatto venire voglia di leggere, almeno a me è venuta voglia di leggere, perché questi cambiamenti della vita sono interessanti. Natura non facit saltus, diceva qualcuno, invece ma dove assolutamente convinto che lo fa. Fuori queste citazioni, natura non facit saltus. Facit saltus. È interessante, Interessante, io sono assolutamente convinto che è proprio il concetto dell'evoluzione è questo, ci sono dei piccoli jump, dei piccoli salti che la natura fa. Noi, essendo parte della natura, essendo microcosmi all'interno del macrocosmo, non facciamo altro che riprodurre la natura, quindi io credo fermamente nei salti. Un giorno uno si sveglia e cade. D'altra parte, della mia stessa opinione anche un certo Alessandro Baricco, il quale ha descritto la caduta di un quadro e si chiede perché il chiodo si è staccato quel giorno e non un altro. Oh. È bellissima, io questa immagine che ha creato Alessandro Baricco non la scorderò mai. Ma sei caduto anche tu stamattina, però, vero? No, scendo dal letto. Proprio perché è interessante il fatto che il quadro è lì, in quel punto, e poi improvvisamente cade. Quindi ci sono delle tensioni invisibili e poi si manifestano con la caduta del quadro. E questo è bellissimo perché è una parafrasi, secondo me. Ma secondo me non è improvviso. No, è un però invisibile. È invisibile, ma invisibile. Non improvviso. No, certo che no, non è che cade improvvisamente, ma sono le tensioni invisibili dietro che fanno sì che sembri improvviso la caduta, ma in realtà improvvisa non è. E allora, visto che improvvisa non è, improvvisiamo qualcosa che mi piace particolarmente. Ormai siamo alla fine di novembre, quasi, no, non è vero, magari. Invece no, siamo a metà novembre, però vi annuncio già che in occasione del 90° anniversario del decesso di Giacomo Puccini e del 40° anniversario della Costituzione Lucchesi nel mondo, il venerdì 28 novembre, un saluto ai toscani, venerdì 28 novembre alle 20 al Bosà ci sarà un concerto di musica di Puccini, si chiama Gala Puccini 90 Vissi d'arte, con Valentina Boia soprano, Francesca Cappelletti, Mirko Matarazzo, Manuel Pigliaratelli, Massimo Morelli, che insomma, vabbè, le opere famose. E poi non so quanti dei nostri ascoltatori lo sanno che Puccini è morto a Bruxelles. E come no? E dove è morto? In un ospedale che è vicino a Place Blicquière. Già, esatto, questa è una chicca che dovete prendere. Puccini morì in un ospedale e l'immobile è ancora lì, ovviamente rifatto, ed è all'angolo fra Place Blicquière e Avenue de la Couronne. Già, non potete sbagliare nel lato con Rue. Scusa George, ma aveva preso freddo? Era malato? Che è successo? No, era malato. Era malato di cancro, il povero, era già troppo inoltrato nella malattia e a Bruxelles è venuto perché qua si faceva l'innovativa radiazione come cura, però purtroppo per lui era troppo tardi, però ci ha lasciato Manuel Scola, Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, il Tabarro, Turandot, insomma... E potete ascoltare pezzi sicuramente da tutte queste tutti questi capolavori il 28 novembre, venerdì 28 novembre al Bosar, quindi insomma per chi ama la musica credo che sia un'occasione ghiottissima. George, io ricordo l'evento di mercoledì 19, la settimana prossima, all'Istituto Italiano di Cultura con Paolo Rumiz, che racconterà del suo viaggio sui luoghi della Prima Guerra Mondiale, organizzata appunto per il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. L'Istituto Italiano di Cultura fa due serate, una lunedì con un film e mercoledì con Paolo Rumiz, che proveremo a intervistare. E certo che proveremo a intervistarlo, sicuramente proveremo a intervistarlo perché Paolo Rumiz è Paolo Rumiz. Mi sarebbe piaciuto intervistare anche Tiziano Terzani. Puoi fare soltanto un'intervista spirituale, diciamo, che secondo me a lui piacerebbe. Anche a me piacerebbe, però chissà come sarebbe un'intervista con Tiziano Terzani. Come la vedresti tu? Lo vedrei, ci vedrei un sacco di saggezza, però senza pretese. Magari riusciremo a intervistarlo a Tiziano Terzani, chi lo sa. No, mi viene intervista con Tiziano Terzani e mi dice, ma cosa c'entra Rumiz con Terzani? È sempre il viaggio. E poi? Forse la provenienza? Forse. Anche. Un paese, un stranissimo paese Trieste, una metà fra l'Austria e l'Italia. È una bellissima città, guarda. Sono stato per il Capodanno dell'anno scorso, veramente bellissimo. Amata da un grande personaggio, un grande scrittore. Che ha scritto The Dubliners, James Joyce, c'è anche la statua. Ecco, bravo, meno male che l'ha detto. E quale altre particolarità ha Trieste? Beh, c'è una c'è il bellissimo castello, sì, c'è poi il castello di Miramare, c'è sì, il poi golfo, poi c'è una specie di canale che sembra di essere a Venezia, ma ce n'è solo uno, c'è la piazza, l'unica piazza che dà sul mare in Italia, che ha tre lati, non è piazza unità d'Italia. Sono in due città in Europa che hanno la piazza sul mare. Ah, io l'unica in Italia, diciamo. Una è Trieste e l'altra, anzi è l'unica in Europa che ce l'ha sul forse mare, Lisbona ce l'ha. Lisbona sì, ce l'ha, però non è mare. E davanti a Lisbona non c'è il mare, signori. È le spiagge, il mare, il fiume. È il fiume, però è vero che l'impressione è